Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Entra in vigore oggi il nuovo piano di prevenzione degli incendi. Ogni anno la regione registra una media di 84 roghi boschivi. Il periodo più a rischio è l'estate. Con l'aumento del traffico dei vacanzieri si moltiplicano gli incidenti stradali. I consigli per una guida sicura a cura dell'ANAS. Aumenta in Italia il numero degli impianti fotovoltaici in Friuli Venezia Giulia, la provincia in cui sono più diffusi, e Pordenone, la terza in Italia. L'estate è la stagione in cui più facilmente vengono abbandonati gli animali. Secondo l'ENPA il 2023 è stato un anno da record negativo, ma in questa regione il fenomeno è poco diffuso. Al via oggi a Codroipo un nuovo campo estivo per bambini e ragazzi dedicato al cibo, dalla semina dei prodotti agricoli alla raccolta, dalla loro trasformazione alla cucina. Si è conclusa 1-1 l'amichevole estiva tra Lazio e Triestina, giocata ieri da Auronzo di Cadore, un appuntamento che si è rinnovato per l'ottava estate consecutiva. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marussi. Ogni anno in Friuli Venezia Giulia si scatenano in media 84 incendi boschivi. Il periodo più a rischio è, come sempre, l'estate. Un rischio aumentato negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, con lunghi periodi di siccità e alte temperature che rendono la vegetazione ancora più secca. Per prevenire roghi devastanti, come quello di 2 anni fa sul Carso Triestino, oggi è entrato in vigore il nuovo piano regionale di prevenzione. La nuova campagna antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco parte oggi. Ogni giorno dalle 8 alle 20 tutti e quattro i comandi del Friuli Venezia Giulia saranno supportati da una squadra dedicata all'antincendio boschivo. Questa squadra, composta da personale in turno straordinario, sarà ognuna dotata di un nuovo mezzo fuoristrada Unimog, scarrabile con una capacità di 3.800 litri d'acqua e 150 metri di tubazione. Le squadre AIB, oltre ad essere pronte ad intervenire in caso di incendi della vegetazione, si occuperanno anche di perlustrazioni e controlli del territorio. Per questo sono state mappate le zone a rischio e naturalmente quelle già vittime di roghi in passato. In particolare viene tenuto sotto controllo, per quanto possibile, il Carso Triestino e Goriziano. Quello sloveno, la scorsa settimana, è stato colpito da un grosso incendio, spento anche grazie all'attività di prevenzione. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Gorizia, Pierpaolo Gentile, spiega che la competenza di prevenzione e gestione degli incendi boschivi è in carico alla regione, che se ne occupa insieme alla forestale, quella di spegnimento e dei Vigili del Fuoco. Il nuovo piano fa parte di una convenzione a livello regionale tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale. Prevede anche la possibilità di spostamento di queste squadre in caso di necessità da una regione ad un'altra. Un'altra convenzione invece con la Slovenia permette la collaborazione e l'ingresso nei due territori di confine in caso di incendi delle squadre dei Vigili del Fuoco dei due paesi. Incendi che nella maggior parte dei casi sono provocati dall'uomo in modo colposo o spesso doloso. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri uno scontro frontale tra un'auto e un furgone sulla Ponte Bana all'altezza di Venzone. Nell'incidente è stata coinvolta un'intera famiglia, il papà e un bambino sono stati trasportati in ospedale in elicottero, mentre l'ambulanza ha trasferito la mamma e un altro figlio. È solo uno degli incidenti di ieri. I dati Istat, che saranno aggiornati a fine mese, parlano di 3.265 incidenti nel 2022 su strade e autostrade del Friuli Venezia Giulia. Hanno causato la morte di 74 persone e il ferimento di altre 4.105. Il 2022 è stato caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell'incidentalità stradale. Rispetto al 2021 l'aumento è stato del 9,9% e del 10,6% dei feriti, dato superiore a quanto registrato a livello nazionale, mentre le vittime della strada sono diminuite del 9,8%, passando da 82 a 74. A fronte di un aumento del 9,9% nel complesso del paese, la maggior parte degli incidenti del 2022 si è verificata in provincia di Udine, al secondo posto Trieste, seguita da Pordenone e Gorizia. Fondamentali, soprattutto in questi periodi di intenso traffico, le raccomandazioni per una guida sicura. Sentiamo quelle dell'ANAS contenute in una recente campagna. I il social può attendere. Solo quando hai fermato l'auto puoi dedicarti al cellulare anche per seguire alcuni tra gli influencer più noti. Il messaggio della campagna promossa da ANAS in collaborazione con Polizia di Stato e Ministero dei Trasporti vuole ricordare soprattutto ai più giovani che se si è alla guida per qualsiasi altra attività si deve aspettare. Il 10% degli italiani ha girato un video con lo smartphone mentre era al volante. Il 93% degli incidenti è causato da distrazione alla guida, stato di alterazione ed eccesso di velocità. Nel nuovo spot ANAS Gruppo FS, perfino gli influencer sono pronti a fermarsi, perché quando si guida tutto, ma proprio tutto, può aspettare. La campagna che prende il via in questi giorni vuole fronteggiare il grave fenomeno degli incidenti stradali, che sono la prima causa di morte in Italia nella fascia d'età tra i 19 e i 23 anni. La sicurezza stradale, si vuole sottolineare, è una responsabilità collettiva e dipendente più che da un obbligo, da una scelta consapevole. Altre informazioni su questa campagna di sensibilizzazione si possono ottenere sulla pagina guidoebasta.it. La Guardia di Finanza ha interrotto un traffico di cocaina che da Parma veniva smistata anche a Udine e Pordenone. 4 persone sono finite in carcere, altre 3 sono destinatarie di divieto di dimora nella provincia di Parma. Sono tutti di nazionalità albanese, sequestrati anche 360.000 euro. Sono 15 in tutto gli indagati dalla Procura parmigiana, alcuni dei quali ritenuti dagli investigatori di notevole spessore criminale. La pagina del tempo: il cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso e variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 27 gradi, mare quasi calmo con una temperatura di 24 gradi. Udine 27, Gorizia 31, Pordenone 29, Tolmezzo 24, Tarvisio 21, Forni di Sopra 22, Piancavallo 20, Sappada 15, Monte Zoncolan 16, Monte Lussari 14, Grado 27, Lignano 29, con una temperatura del mare di 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: dal pomeriggio il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, ma saranno possibili rovesci sparsi e qualche isolato temporale. Dopo il tramonto il tempo sarà più stabile. Nel 2024 in Italia gli impianti fotovoltaici sono aumentati del 27% e secondo alcuni dati diffusi oggi dal Sole 24 Ore, Udine è tra le città che ha visto il maggiore incremento, con 8.511 nuovi impianti installati. A Milano sono stati solo 1.000 in più. Al momento è però Pordenone la provincia in cui è più diffuso il fotovoltaico in regione, la terza in Italia dopo Treviso e Cuneo. Qualche giorno fa un ragazzo di Pordenone si è rivolto a un centro antiviolenza. La sua richiesta: aiutatemi prima che sia troppo tardi, non voglio diventare come Turetta, ha fatto il giro del web. Di solito in questi centri arrivano uomini condannati per violenza, ma questa richiesta preventiva fa ben sperare, almeno per l'aumento della consapevolezza. Sentiamo Antonio Aprea dell'associazione in prima persona. Ci rivolgiamo al maschio maltrattante che volontariamente viene a incontrarci, incontra un uomo nella nostra persona, non un professionista, agendo noi volontaristicamente, e lo scopo è quello di far emergere nel soggetto la consapevolezza che ha agito o sta agendo delle azioni violente all'interno della coppia, nella relazione con l'altro genere. Questo è l'aspetto più importante della nostra attività. C'è un identikit delle persone che si rivolgono a voi? Certamente non abbiamo avuto presenze di giovanissimi, possiamo dire che tra i 40 e i 60 anni abbiamo avuto utenti che cadono in questa attività di età, eterogeneamente italiani e stranieri residenti sul posto, e anche professionalmente la massima eterogeneità nei soggetti che sono arrivati da noi. Non arrivano giovani, però voi avete avvicinato anche il mondo dei giovani e non è un mondo esente da queste problematiche. Assolutamente non lo è esente, anzi proprio per questo motivo il nostro fiore all'occhiello è l'attività presso i giovani. Lo facciamo attraverso le scuole con programmi di attività di consapevolezza e di conoscenza del problema dei rapporti tra genere. Abbiamo confezionato, o meglio fatto confezionare da professionisti apposta, un insieme di attività di incontro, e sono state perpetrate nelle scuole superiori per gli allievi delle terze e delle quarte classi anche nello scorso anno scolastico, con un enorme successo legato al fatto che i giovani stessi hanno gradito. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'estate è la stagione in cui più facilmente vengono abbandonati gli animali. Secondo i dati diffusi dall'ENPA, il 2023 è stato un anno da record negativo. Sono stati infatti ceduti o abbandonati più di 127 animali ogni 24 ore, con un aumento del 20% rispetto alle due estati precedenti. In questa regione, però, si tratta di un fenomeno quasi inesistente. Un fenomeno diffuso, in particolare d'estate, anche se in Friuli Venezia Giulia ha una frequenza minima. Si tratta dell'abbandono degli animali domestici. Nel corso del 2023, secondo l'Ente Nazionale per la Protezione Animali, ENPA, i numeri sono stati da record, con una media di 384 esemplari ceduti o abbandonati ogni giorno. Cifre che nella nostra regione sono di gran lunga più basse. Di veri e propri abbandoni ne contiamo pochissimi, meno di 5 all'anno, dice Massimo Erario, direttore della struttura di sanità pubblica veterinaria di Asugi. Secondo cui, da noi è sempre stata una pratica poco diffusa, scoraggiata ulteriormente dall'avvento del microchip obbligatorio, mentre chi fa rinuncia all'animale deve contattare il canile comunale competente. In ogni caso, in base ai numeri dell'ENPA, è proprio nei mesi estivi che la tentazione di abbandonare un animale d'affezione si fa più forte. Sempre nell'estate 2023 i casi erano cresciuti del 20% rispetto alle due estati precedenti. Anche per questo, e per il fatto che l'abbandono è un fenomeno pericolosissimo per la circolazione stradale, la Polizia di Stato ha varato una campagna di sensibilizzazione con lo slogan «Se non ti porto, non parto», affidando inoltre a Gianluca Romiti, dirigente della Polstrada di Trieste, alcuni consigli su come trasportare gli animali quando si viaggia. Un singolo animale d'affezione può essere trasportato all'interno dell'abitacolo libero, a patto che naturalmente non interferisca con le attività di conduzione da parte del conducente. Più di un animale invece deve essere necessariamente trasportato nel vano posteriore, dotato di apposita griglia o rete divisoria, altrimenti i più classici trasporti. Daniele Lettige, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentata questa mattina nella sede del Consiglio regionale una nuova iniziativa della Rete delle Città del Vino che si svolgerà tra il 24 luglio e il 25 agosto, un'occasione per i vignaioli per rilanciare il turismo del vino in regione. Alzare il calice tra amici, assaporare il territorio nel bicchiere, godendosi l'aria fresca del crepuscolo. Sono le notti del vino, un nuovo evento e soprattutto occasione per fare rete e rilanciare l'enoturismo in regione. Circa 300 le aziende vitivinicole coinvolte, 28 appuntamenti in 26 città del vino, in tutti e quattro i territori provinciali della regione, con una tappa anche a Buie d'Istria in Croazia. Tiziano Venturini, coordinatore Città del Vino Friuli Venezia Giulia. È un evento nuovo. Un evento voluto fortemente dalle Città del Vino, sono ben 39 i comuni che fanno parte di questa rete e che ha una storia, ed è da questa storia di collaborazione, di lavorare proprio in gruppo, che è nata questa volontà di fare questa iniziativa estiva di promozione del nostro territorio e dei nostri prodotti. Un evento che vuole continuare l'esperienza delle verticali del vino, che tra novembre e maggio hanno coinvolto 500 appassionati del vino e 60 aziende che hanno espresso la necessità di una promozione coordinata a livello regionale. Annalisa Zorzettig, produttrice di Cividale. Per noi friulani in particolar modo, che siamo vignaioli dentro nell'anima e ci teniamo al nostro prodotto, dove i vini veramente di tutte le cantine friulane lavorano molto bene, ci presentiamo con dei vini che hanno una loro forte identità. Noi abbiamo bisogno di queste istituzioni che ci aiutino a fare il cosiddetto marketing, a farci conoscere fuori. La presentazione è stata anche l'occasione per consegnare 26 medaglie a cantine e distillerie che hanno partecipato al 22esimo concorso enologico internazionale Città del Vino e Grappa Award. Tra i premiati il produttore di Muraro, Enrico Agostinis. Beh, sono iniziative essenziali perché amplificano, promuovono e celebrano anche un lavoro paziente che duro e lungo un anno e danno un risalto che è assolutamente indispensabile per la nostra attività. Trieste, Vaciuk, TGR Friuli Venezia Giulia. Parlavamo prima della violenza di genere, particolarmente toccante a questo proposito l'ultima campagna di prevenzione della Polizia di Stato. Presenta un volto, un nome e una storia vera, l'ultimo spot della campagna informativa Questo non è amore della Polizia di Stato, dedicata alla prevenzione della violenza di genere. La vicenda è quella di Filomena Di Gennaro, pugliese, che nel 2006 aveva un fidanzato da 10 anni che aveva deciso di lasciare. A questo punto la sua vita prende una svolta inattesa, anche se paragonabile a quella di altre vittime di violenza di genere. Quando mi arriva un messaggio in cui mi diceva che stava arrivando, che voleva parlarmi per l'ultima volta. Tira fuori la pistola e dice: o mia o di nessun altro, e inizia a sparare. Io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, lo guardo, gli chiedo: per favore fermati, cosa stai facendo? Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra. Io sono viva per miracolo perché lui voleva uccidermi. Soccorsa da un allievo maresciale dei carabinieri, Filomena è subito portata in ospedale in condizioni gravissime. Uno dei proiettili aveva lesionato il midollo spinale, per cui io da 18 anni vivo su una sedia a rotelle. Da qui l'impegno della donna per l'informazione sul fenomeno della violenza di genere. La violenza sulle donne riguarda tutti, uomini e donne, perché al mio posto potresti esserci tu, potrebbe esserci tua figlia, tua mamma, una tua amica. Non fatevi gli affari vostri, la violenza sulle donne riguarda tutti noi, non voltatevi dall'altra parte. Con la premiazione di ieri si è concluso il 61esimo concorso internazionale di canto corale Seghizzi. Sfilza di premi di categoria e speciali per il coro dell'Alta Scuola di Musica e Teatro di Amburgo, diretto da Cornelius Strantow, che ha ricevuto anche il premio per il programma di maggior interesse artistico. Paolo Orlandi si è aggiudicato il trofeo internazionale di composizione per la composizione Hope. Ad aggiudicarsi invece il 34esimo Grand Prix Seghizzi è stato il coro dell'Università di Economia di Katowice, insignito anche del premio del pubblico. Lo dirige Michael Brozek, al quale è andato invece il premio Andrea Giorgi per il miglior direttore di coro dei complessi partecipanti alle categorie 1 e al Grand Prix. Con la vittoria del Grand Prix, il coro polacco si è garantito così il diritto di partecipazione al 62esimo concorso internazionale di canto corale Seghizzi in occasione degli eventi di Nova Gorica, Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Ora siamo allo sport. Si è conclusa con un pareggio 1-1 l'amichevole estiva tra Lazio e Triestina, giocata ieri ad Auronzo di Cadore, un appuntamento che si è rinnovato per l'ottava estate consecutiva. Come inizio va più che bene nell'amichevole contro la Lazio ad Auronzo di Cadore. La Triestina agguanta il pareggio, ma soprattutto mostra di saper tenere il campo con un bel fraseggio e tanta concentrazione. Finisce 1-1, gara giocata sotto la pioggia, ma che regala al neoallenatore Santoni sprazzi di luce. La Lazio parte decisa e sblocca subito all'ottavo con un rigore scaturito da un contrasto tra Correia e Patrick in area, con Ross che non trattiene. Dagli 11 metri Gandosì non sbaglia. Al 13esimo Lazio vicino al raddoppio, Noslin si tuffa di testa su un cross di Chauna, ma la palla finisce sul palo. Biancoceleste ancora avanti con Isaacsen con un suo suggerimento che attraversa l'area ma senza trovare giocatori. 10 minuti dopo tocca alla Triestina a farsi vedere dalle parti di Provedel con azioni personali di Vicario e una fiammata che finisce tra le mani del portiere. Al 38esimo ancora Lazio, Noslin in contropiede, calcia col destro dai 20 metri ma la palla finisce ancora sul palo, lo stesso di prima. Ripresa più equilibrata con la Lazio che si affaccia dalle parti di Rosse e poi di Diachite ma senza creare problemi. All'80esimo è Fertainen che con uno spunto porta confusione nella difesa biancoceleste e il suo tiro carambola su Lazzari beffando Mandas è 1-1. Prima della fine c'è spazio anche per un contropiede di Jonsson che in diagonale impensierisce Mandas e poi a tempo scaduto l'ultimo tentativo della Lazio con Castellanos in tuffo. Per la Triestina ancora in cantiere le indicazioni sono positive. Non è da queste gare che si fanno valutazioni, dice mister Santoni, ma abbiamo dimostrato di crederci e dal calciomercato si aspetta ancora un rinforzo, soprattutto in difesa. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic. In regia per la parte tecnica Corrado Spunton, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.